Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Bentornati, riprendiamo il filo della storia di José Rallo, che è titolare dell'azienda Donna Fugata e guida il team marketing e sovrintende al controllo di gestione al sistema di qualità proprio dell'azienda di famiglia. E le abbiamo chiesto come si rapporta con la vita e il lavoro, qual è il bilanciamento che ha scelto per svolgere appunto bene i suoi compiti e provvedere anche alla sua famiglia. Allora, guardi, io penso che bisogna distinguere due livelli. Uno è quello del tempo misurato in ore, minuti, giorni, settimane. E lì naturalmente bisogna dividersi, no? Tra la famiglia, il tempo libero che comunque serve. E sicuramente essere un imprenditore consente una certa flessibilità nell'organizzazione del proprio tempo. Penso che per una donna che faccia un lavoro invece dipendente ci possa essere qualche difficoltà in più. Quindi io uso molto, diciamo, la flessibilità che mi è consentita dal mio ruolo. D'altra parte però devo dire che c'è anche un valore nell'essere donna madre, donna moglie, e io questo valore lo riconosco nelle mie collaboratrici. E la donna, essendo multitasking in questo modo, ha una elasticità, una flessibilità, una sensibilità notevolissima, che in una situazione come questa, di mercati instabili, di mercati incerti, di futuro incerto, è fondamentale, è una risorsa incredibile. Mi può allora spiegare qual è la sua giornata tipo tra famiglia e lavoro? Guardi, sicuramente la famiglia mi ha aiutato molto, soprattutto mia mamma, però diciamo che ho messo su una macchina organizzativa potente. Loro hanno ovviamente la loro babysitter che li aiuta a fare i compiti al pomeriggio. Io quando sono a Marsala assolutamente li porto a scuola facendo due passi con loro, chiacchierando, e poi pranziamo insieme e ceniamo insieme. Poi c'è, oltre alla mia famiglia, una grande famiglia allargata che è la famiglia dei genitori, dei loro compagni. Quello che io ho cercato di fare in questi anni è di diventare amica e di frequentare, di tra virgolette collaborare con i genitori dei compagni di classe dei miei figli, che potevano raccontarmi qualcosa che mi era sfuggito oppure intervenire in un'emergenza: senti, prendilo tu a pranzo oggi, oppure tienilo tu a cena che mi farebbe comodo. Questa famiglia allargata non è soltanto una mia comodità, ma è anche per i miei figli un punto di riferimento. Io ho almeno due mamme, una per la bimba Gabriella e una per il bimbo Ferdinando, che loro chiamano la mia seconda mamma. Per me questa è una conquista stupenda. Io li ho aiutati a scegliere, loro hanno scelto, però alla fine per loro è una certezza e lo è anche per me. Dalla creatività applicata alla vita personale, privata, lavorativa, alla creatività invece applicata all'azienda e al territorio e alla società. Quali sono le innovazioni tecnologiche di punta della vostra azienda? Ma guardi, io rimasi colpita da un articolo con un'intervista a Carlo Rubbia che descriveva appunto la Sicilia come la terra del sole, con questo grandissimo potenziale energetico lasciato lì senza essere adeguatamente sfruttato, e dissi: ma perché io nel mio piccolo, con le mie poche risorse, non posso cominciare a fare qualcosa su questa strada? E quindi decisi che per l'azienda di Conte Sentellina bisognava produrre energia pulita grazie appunto a degli impianti fotovoltaici e in questo modo coprire il fabbisogno energetico in maniera diciamo rispettosa nei confronti dell'ambiente. E l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo, pur con mille difficoltà, perché purtroppo produrre energia pulita in Italia è veramente una cosa da eroi. Come è possibile proseguire su questa strada che avete già intrapreso, consolidarla? Quali sono gli ostacoli da togliere? Come lo vede lei il futuro della sua azienda in questo contesto, proprio stando proprio nella realtà? Guardi, noi pensiamo che ci sarà sempre una maggiore attenzione da parte del consumatore per le produzioni ecocompatibili. Noi non abbiamo fatto la scelta del biologico, ad esempio, abbiamo preferito fare la scelta dell'energia pulita. Cioè, penso che la vita sia sempre un compromesso, no? Io preferisco coltivare il mio vigneto potendo fare un trattamento fitosanitario quando serve per la qualità delle mie uve, però voglio incrementare la produzione di energia pulita. Ecco, questo valore della tendenza a realizzare un prodotto e un processo ecocompatibile è un valore molto sentito a livello globale. Cioè, quando io parlo di fotovoltaico, non so, negli Stati Uniti piuttosto che in Cina, c'è una sensibilità incredibile, o in Giappone, un interesse incredibile. Quindi noi puntiamo a consolidare questa filosofia aziendale e a comunicarla nel modo migliore. Uno degli investimenti più divertenti che abbiamo fatto nel 2008, e adesso stiamo cominciando a raccogliere un po' i risultati, è stato quello di creare delle landing page nel nostro sito web, che conta quasi 100.000 visitatori all'anno, in lingua e caratteri originali. E cioè, io ho una home page in cinese, una in coreano, una in giapponese, russo, eccetera eccetera, per cui il mio website è in grado di riconoscere la lingua madre di chi sta scrivendo per entrare nel mio sito e lo indirizza direttamente sulla home page nella sua lingua con i suoi caratteri. E lì ci sono dei bottoncini colorati con i link ai principali argomenti, non solo l'importatore, le schede tecniche in cinese, la rassegna stampa in cinese. È un piccolo messaggio di benvenuto in cui si dice: caro visitatore, ti ho qui raccolto le principali informazioni disponibili nella tua lingua, il resto lo troverai in inglese. Buona navigazione. Sì, anche perché basta poco. Poi voi siete anche molto aperti a questo turismo enologico, che è un'altra cosa. Brava. Che mi ha colpito. Esatto, questa è la seconda cosa che riguarda il futuro, avevo preso appunto un appunto per dirlo, una apertura ancora maggiore ai wine lover. Il nostro sogno sarebbe quello di creare un Dona Fugata Wine Tour, perché noi abbiamo le cantine storiche dell'Ottocento a Marsala, abbiamo i vigneti nel cuore della Sicilia occidentale a Contessentellina e abbiamo Pantelleria. Ecco, l'idea sarebbe quella di creare questo wine tour e creare appunto una settimana, quattro giorni di full immersion nel mondo Dona Fugata e di visita delle tre aziende. Oggi lo facciamo soprattutto per gli opinion maker, quindi per i giornalisti stranieri soprattutto, o per grandi clienti, i nostri importatori. L'idea è quello di poter lanciare questo tour nell'arco di un paio d'anni anche sul mercato del singolo turista. Quindi questo è uno sguardo concreto al futuro, diciamo. Sì, io penso che ci sia curiosità, la voglia di entrare dentro i meccanismi della produzione. Noi diciamo addirittura che ci piace raccontare i segreti della nostra produzione, no? Il contatto con il produttore crea un rapporto di fiducia del consumatore, che poverino, quando entra in un'enoteca e guarda lo scaffale, c'è un contenuto nascosto dentro una bottiglia. E obiettivamente bisogna anche mettersi nei suoi panni, no? Quindi quella scelta può essere anche una scelta azzardata, e allora sì, noi dobbiamo cercare di avvicinarci il più possibile al consumatore, al wine lover, e incoraggiarlo a sceglierci e a provare per poi riacquistare. Certo, perché facendo anche l'esperienza, diciamo, di un vino è più facile, come dire, fare una scelta. Uno lega i ricordi, lega, cioè almeno sperimenta, no? Nella scelta magari un vino vale l'altro, invece se si è vissuto non è più così, ecco. Beh, certo, la scelta emozionale, diciamo, è quella più forte e difficile che un appassionato di vino che viene da noi e ci visita e ascolta tutto e assaggia tutto, magari dalla barrique, no? E poi non gli rimanga questo ricordo per sempre. Finisce qui la storia di oggi. Abbiamo parlato per Voci d'Impresa con José Rallo, titolare dell'azienda Dona Fugata. Noi ci ritroviamo con un'altra puntata di Voci d'Impresa. Un cordiale saluto da Anna Marino.